bisogno di personale, quale che entra, per me non ce n'è problema. Sono 100 euro a notte. Bottega? Ma tipo quello di là, tipo quello che c'è nel portatore, se cosa. Ma con il mio compare gli davano 100 euro a notte. Hanno chiuso tutto. Ah, è vero, cazzo. Hanno chiuso tutto il Boterrugo, hanno chiuso tutto. Dimenticando me ne stava. Se ne è scappato perché una volta è andato questo pastore di paese, me gli ha detto in diesse se pagasse. E lui gli ha detto, ah io non lo so, io faccio il barista. Ah, tu non lo riesco a vendare, e ha preso e si è buttato la pistola. Quel giorno se ne è scappato, non c'è più andato. Cazzo, ma pacchia con i tivi, no. Me ne è andato via, non c'è più tornato, dice se no già mi andava anche bene, c'entra la notte, mi stavo facendo ricco. Mi sono trovato il giro buono perché e poi bisogna la roba che ho già fatto. Allora al ritiro, dopo la pulita ci siamo.